oppressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata. Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto. E allora, domenica 6 marzo 2016, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questa è La Mischia, la trasmissione sportiva della radio. Intanto un saluto a tutte e tutti da tutti qua presenti, per una volta, capita raramente. Sì, finalmente uno studio gremito. Abbiamo anche un ospite. Con tanto di ospite, quindi oggi molto studio. Ciao a tutti e tutte. E intanto, per iniziare, una canzone, come di consueto, una canzone che fra l'altro è l'inno delle She-Wolves, di cui appunto un esponente è qui in studio, quindi ve la mandiamo. Come dicevamo, salutiamo quindi in studio una delle She-Wolves, che è la squadra, lo ricordiamo, di roller derby della capitale. E uniche e sole. Speriamo, insomma, per poco, così, insomma, per ampliare il più possibile questo sport, che intanto ricordacelo brevemente cos'è. Allora, è uno sport di contatto fisico sui pattini, si gioca sui pattini a quattro, non quelli in linea, i cosiddetti quad, proprio perché c'è bisogno di stabilità per dare e ricevere le botte. Fondamentalmente non c'è nessuna palla, ci sono due squadre di quattro, di cinque e cinque giocatrici che se le danno, diciamo così. Ottimo, ottimo. E quindi per darvela avete bisogno di spazi, mi sembra una evidente. Una bella pista ellittica, dove appunto la jammer, che è colei che deve fare i punti, l'attaccante deve sfondare un muro di quattro blocker, che sarebbe la difesa. Quindi si fionda sulle blocker e deve sfondarle fisicamente, passare oltre, così fare i punti e si ritorna al giro successivo e così via. E quindi per avere questa pista, diciamo, c'è un'iniziativa in corso di cui abbiamo peraltro già parlato, che è quella della riqualificazione di Parco Brin, che vede proprio una pista di pattinaggio, no? Sì, sì, di cui tra l'altro non so se molti erano a conoscenza. Questo parco, Parco Brin, probabilmente chi vive a Garbatella lo conosce, dove fanno anche il cinema all'aperto. Sono due parti di parco: da una parte il cinema all'aperto, dall'altra c'è questa pista di pattinaggio, che pure è molto carina, però purtroppo lasciata a se stessa, totalmente abbandonata, sporca e quant'altro. E noi stiamo cercando di riqualificare tutta la zona pulendo il parco. Abbiamo fatto appunto delle azioni di pulizia del parco, proprio con tosa erba e quant'altro. E anche abbiamo stuccato la pista, perché appunto si trova parecchio dismessa, ci sono delle buche, non si può al momento fare una partita di roller derby, per esempio, ma questo lo stiamo facendo anche insieme a tanti altri sport popolari, come per esempio bike polo. Anche loro necessitano di questi spazi, e in realtà è un appello a tutti gli sport popolari, chi sta in zona ma anche no, ad aiutare a rimetterci a posto una pista in un parco pubblico, una pista pubblica che però adesso è abbandonata, quindi non possiamo utilizzarla per questi fini. Ma quindi il campo da gioco, diciamo che è una normale pista di pattinaggio, cioè è sufficiente una normale pista di pattinaggio, o serve qualcosa in più, infrastrutture aggiuntive? In realtà sarebbe ottimale, per esempio non c'è illuminazione. Vabbè, certo. Illuminazione, anche un telo per coprirla, perché così si può usare anche d'inverno, non solo quando fa bel tempo, insomma. Poi anche per ripararla da, siccome ci sono gli alberi, allora ripararla da eventuali sassolini o pini o foglie, insomma. Diciamo anche delle panche, anche se ne abbiamo messo alcune fatte alla buona con dei pezzi di legno, giustamente quello che troviamo usiamo, però insomma si potrebbe fare tanto, c'è tanto da fare, e noi stiamo organizzando questa sera, faccio un appello a chiunque si trovi nei dintorni di Garbatella o comunque si possa avvicinare velocemente, che dalle 6:30 ci sarà questa serata per un autofinanziamento per questo progetto della pista. Al centro sociale La Strada, che fa parte del comitato di Riprendiamoci Parco Brin, sta anche la pagina Facebook, chi volesse andare a vedere il progetto, cerchi Riprendiamoci Parco Brin. Quindi CSO La Strada, insieme a noi SheWalls e Bike Polo, facciamo parte di questo progetto di riqualificazione. Stasera ci saranno un evento con dalle 6:30 documentari per informare sui vari sport popolari, quindi degli speciali fatti da due ragazze che si chiamano Chiara e Silvia, che invece a loro volta hanno fatto questo progetto di A qualcuna piace il calcio, perché appunto sì, è importante quella molto importante. Che a qualcuno piacesse il calcio lo sapeva, insomma, era, ormai si sa. Ma anche a qualcuna fortuna, il calcio, il roller derby e qualsiasi sport versante femminile, perché in realtà appunto se ne parla poco, ma ci sono tantissime giocatrici bravissime, appassionatissime, come negli sport maschili. Quindi documentari, e poi si va con questa cena, dove ci sarà un bellissimo menù di 12 euro, quindi con 12 euro voi che partecipate o parteciperete potrete aiutare appunto alla riqualificazione del parco, della pista di Parco Brin e del parco. Sì, prima di passare all'altro argomento di cui ci parlerai, un altro stacchetto musicale. Fire, fire, fire, and run. I can go into your fire. E quindi Okamon anche ha un'iniziativa che sarà proprio domani invece a Piazza del Popolo alle 19, se non erro, no? Esatto, è un altro bel evento che vogliamo fare noi dello sport femminile. Siamo appunto un po' di squadre, abbiamo organizzato questo evento che poi, a parte quello di domani, speriamo che continui. Vogliamo fare altri eventi per i vari quartieri, proprio per sensibilizzare la conoscenza agli sport femminili, perché abbiamo visto che in Italia si è un po' ignoranti su queste cose. Quindi le squadre sono la nostra, le She Wolves del Roller Derby, poi ci saranno varie squadre di calcio femminile, l'Atletico San Lorenzo, la Res Roma, il rugby, il basket, la pallavolo, il softball. Insomma, stiamo un po' cercando di recuperare varie squadre di queste realtà femminili sconosciute, e volevamo fare domani in Piazza del Popolo una sorta di flash mob, ossia delle varie dimostrazioni di quelli che sono i nostri sport, per far interessare le persone che passeggiano quotidianamente per la piazza, per farle avvicinare alle nostre realtà. Sì, anche perché appunto non c'è molta conoscenza su quelli che sono gli sport femminili, anche non c'è particolare interesse anche in quelli che raggiungono un livello qualitativo alto. Infatti tu dicevi c'è molta ignoranza, c'è stato proprio Chiara e Silvia, appunto, di A qualcuna piace il calcio, hanno fatto questo video andando in giro a intervistare le persone su quali chi fosse, per esempio l'allenatore della nazionale di calcio italiana femminile, piuttosto che chi fosse Vanessa Ferrari o altre, insomma, atlete di, insomma, livello internazionale. Poi, fra l'altro, non stiamo nemmeno parlando di livello nazionale, ma praticamente cadevano nel vuoto, se non sono state desolanti, sì, alcune anche a tratti quasi imbarazzanti e divertenti al tempo stesso. Però se volete vedere il video, fra l'altro si trova su YouTube con l'hashtag Belle Forti, scoprirete insomma un sacco di risposte insomma inquietanti. Non so se vuoi aggiungere qualcosa sull'iniziativa di domani. Beh, penso, domani, come ho detto, sarà un primo passo verso questo progetto, perché abbiamo avuto poco tempo in effetti per metterlo su, quindi aspettatevi altri eventi, ma intanto venite domani a Piazza del Popolo, perché sarà sicuramente interessante, vi avvicinerete a queste realtà e secondo me vi appassionerete tramite la nostra passione. Sì, aggiungo una riflessione che mi veniva appunto dall'ultima, la penultima cosa che dicevi, anzi, cioè che appunto che non si conoscono le atlete, anche le campionesse, spesso e volentieri. Noi abbiamo qualche puntata fa intervistate due, Patrizia Panico e l'altra che appunto in questo momento addirittura non mi ricordo più il nome, ma perché quello sono rincoglionito io, però sostanzialmente le atlete, anche quelle veramente forti, te le devi andare a cercare te, cioè serve uno sforzo soggettivo delle persone di andarsi a cercare le loro vicende, le loro cose, mentre sappiamo benissimo il bombardamento mediatico che abbiamo viceversa su molti dei campioni, proprio che diventano veri e propri oggetti da rotocalco, cioè che roba che ti basta che c'è una TV accesa in sottofondo e ti tocca sorbirti con chi si è fidanzato, con chi si è lasciato, esatto, pure sì. Se non vuoi lo sai, perché poi di fatto ti entra nelle orecchie da mille, che neanche qui c'è un evidente gap, quando appunto anche atlete fortissime, cioè medagliate, campionesse a livello mondiale, veramente poi fatichi a ricordarti addirittura il nome, un po' per colpa nostra, un po' anche perché non ce lo dicono, però. Cioè non ce ne parlano mai. Sì, c'è mai. Proprio poca attenzione a livello insomma mediatico e generale, e tant'è vero che comunque volevo ricordare giusto così in passato, ovviamente l'iniziativa di domani sarà anche perché si avvicina l'8 marzo, che è questo martedì, quindi ovviamente è stata scelta una data anche simbolica per iniziare questo percorso a livello diciamo esterno, anche se poi voi avete iniziato da un po' in realtà a vedervi tra realtà. Sì, di... sì, infatti, sì, sì, anche con Chiara e Silvia organizzare le serate con i documentari appunto informativi, bellissime serate in cui andiamo per locali a mostrare i loro documentari, ci sono dei rappresentanti di queste squadre e ognuna parla di quello che fa, anche perché in questi sport come roller derby per esempio è tutto autogestito molti, quindi se non ci facciamo conoscere noi parlando delle nostre squadre, insomma, non verrà mai fuori. E poi grazie a questo molte persone si interessano, infatti si appassionano e vengono a conoscenza di queste realtà. Volevo dire che è una cosa divertente ma anche desolante appunto di una risposta di questi ragazzi alle domande di Chiara e Silvia, è come se appunto sport maschile e sport femminile, è come se lo sport femminile in realtà non esistesse, cioè le femmine femmine non possono fare sport. Dicevano nelle squadre di calcio, no, ci sono quelli che sì, i ragazzi che giocano a calcio è normale, no? Mentre le femmine non sono adatte. Le femmine non sono adatte perché questo e perché l'altro, differenze di fisico, biologica, eccetera, cioè delle cose desolanti, e noi appunto vogliamo farvi vedere che non è così, che dovrebbe essere già una cosa ovvia, ma se voi venite domani vi facciamo vedere la nostra bravura, la nostra passione, il nostro impegno. Sì, poi giustamente segnalavano anche il sessismo nel passato e anche nel presente, insomma, che è arrivato a per esempio a negare alle donne l'accesso a certi sport perché per esempio si paventava una possibile infertilità se eri maratoneta piuttosto che altri sport, quindi la biologia spesso ritorna, insomma, in questo, nel appunto nel non far approcciare le donne poi allo sport essenzialmente. Vabbè, con questo quindi per ora vi ricordiamo appunto di andare domani in Piazza del Popolo alle 7, quindi. Ah, tra l'altro su questa cosa dell'infertilità volevo proprio spezzare una lancia perché adesso sembra che nel roller derby tutte stanno diventando molto più fertili, sono bambini a go-go, mamme a go-go che poi sfornano e tornano a giocare, quindi voglio dire non è una cosa limitante ma anzi è come se fossero risbocciate in realtà. Ok, questo, su questo magari ritorneremo perché il discorso su appunto poi anche la maternità in realtà è un po' anche insomma all'ordine del giorno, però è abbastanza complicato. E per questo farei un altro stacchetto prima di passare a un'altra iniziativa che si occupa di sessismo sempre nello sport, che è appunto stata questa Fight Girl con cui avevamo un'iniziativa a Torino con su cui dovevamo fare una corrispondenza la scorsa puntata e che essenzialmente non siamo riusciti a fare la scorsa puntata, ma stavolta vi promettiamo che la sentirete, insomma, e che è appunto nel percorso che prosegue un po' quello che è stato GASP, quindi le giornate antisessiste di sport popolare, e che vorrebbe portare a un altro GASP probabilmente a settembre come quello scorso. Intanto le Fucking Barbies con Flusso Abbondante, ritornando quindi a questioni biologiche. C'ho le mestruazioni, ma mi sento libera con il mio Nubenia, con le ali vado in giro, me la godo. Dicevamo quindi Flusso Abbondante per introdurre questa corrispondenza da Torino. Intanto ti salutiamo come sempre, un buon pomeriggio, ciao. Ciao, ciao a tutti e tutti. E quindi dicevamo, due settimane fa ormai si è svolta questa iniziativa con proiezione di film e con un appunto un commento allo stesso film, che era un film su una donna che fa box. E non so se intanto ci vuoi dire perché l'avete proiettato e qual era un po' il percorso che stavate portando avanti in tal senso. Esatto, allora il film si chiama Underfight ed appunto parla di questa ragazza che fa box. In realtà è stata carina anche scoprire la storia del film, nel senso che la regista, il primo film di questa regista, aveva iniziato lei stessa a far box e quindi poi probabilmente motivata anche da questa esperienza ha scritto questa storia. Per quanto riguarda noi, come Palestra Antimini Anni, è nato un po' dal percorso di Gaspo e dall'incontro con la docente Camoletto, che è una docente dell'Università di Torino che si occupa di sociologia dei processi socioculturali e comunicativi. Con lei avevamo già fatto un workshop a Gaspo sul corpo e sulle nuove forme di sport e di sessualità e quindi sui corpi nello sport, e da questa esperienza, durante questo incontro che avevamo fatto durante GASP, avevamo parlato di questo film e dell'eventuale proiezione di questo film, e quindi diciamo che l'idea era proprio che questo film ci riportasse anche a parlare di GASP e dei temi legati allo sport, al genere nello sport, che con GASP abbiamo iniziato lo scorso anno. E non so, magari se dire due parole su GASP. Scusa, mi ero un attimo persa nella ricerca della prossima canzone. Dicevi posso dico solo due parole su cosa. Sì, certo, scusa. GASP era un po'. Abbiamo dato questo nome che era l'acronimo Giornate Antisessiste dello Sport Popolare. Nasceva dall'idea di confrontarsi sulle tematiche appunto dello sport e di come ci si vive lo sport e di cosa può essere il sessismo e l'antisessismo all'interno dello sport popolare in particolar modo. E quindi questo percorso, che era stato molto bello, molto ricco, aveva coinvolto palestre, individualità, collettivi su tutta Italia, aveva portato a questa tre giorni, che è stato il 25, 26 e 27 settembre scorso qui a Torino. E la tre giorni prevedeva momenti di sport, perché per l'appunto di questo che si parlava, e momenti invece un po' più di assemblee, di dibattiti, di workshop, di riflessione diciamo collettiva su questa tematica qui, quindi quella dell'antisessismo nello sport in particolar modo. E l'idea era che questo percorso non finisse in quel momento, ci sembrava che avesse posto tante domande, aperte tanti stimoli, tanti spunti di riflessione, quindi che fosse un percorso che poteva ancora dare tanto. E quindi questo è stato un po' il nostro primo momento per iniziare a parlare di GASP, con l'idea come sempre di coinvolgere tutte e tutti nella costruzione di altre iniziative di questo tipo. Senti, quindi come è andato il dibattito, questa iniziativa nello specifico? L'iniziativa è andata secondo me molto bene, era una domenica pomeriggio, abbiamo visto il film, abbiamo fatto una merenda e poi dopo abbiamo fatto questo dibattito con Raffaella Camoletto dell'Università di Torino e poi con chi aveva partecipato alla proiezione del film. Devo dire che è stata una proiezione, un dibattito abbastanza partecipato e molto interessante rispetto ai contenuti e alle modalità diciamo di discussione, nel senso che una cosa che a me personalmente è piaciuta molto è che c'è stato anche un mettersi in gioco con le proprie esperienze personali. Quello che ci sembrava interessante come del film era proprio che in qualche modo mettesse in discussione, ma dall'altro facesse anche vedere in maniera molto, molto semplice, molto diretta diciamo, quelli che sono gli stereotipi comuni attribuiti al genere maschile e femminile, quindi in che modo poi possono in qualche modo essere messi in crisi se vengono sfidati diciamo. E quindi siamo partiti un po' dal film, brevemente la storia di questa ragazza che inizia a far pugilato e all'inizio senza che il padre ne sia a conoscenza e che in qualche modo sia troppo d'accordo con questo, mentre per esempio il fratello faceva già box, quindi e aveva invece la passione per lo studio. Non voglio dire troppo del film, ma giusto qualche elemento per capirlo. Quindi abbiamo un po' riflettuto su come poi ci siano delle pressioni rispetto a quello che una determinata identità viene considerato, per una determinata identità viene considerato comune, quindi come queste pressioni riguardano entrambi i generi, e quindi in qualche modo entrambi, sia donne che uomini, si trovino nella propria vita ad avere delle caratteristiche che dovrebbero avere, no? Che si considera che comunemente debbano avere. E quindi su questo poi ci sono stati anche degli spazi di riflessione personale su quelle che sono state le esperienze di tanti e tante di noi, di come questa pressione magari è stata avvertita o di come anche in alcuni casi sia stata vista contrapposta nella propria esperienza personale. Un altro tema interessante è stato quello, perché durante nel film a un certo punto c'è un incontro tra Diana e il suo ragazzo, e quindi anche questo era un tema che in qualche modo con Gasp stiamo portando avanti. Era iniziato con un workshop che abbiamo fatto, una tavola rotonda che abbiamo fatto sull'accessibilità di genere all'interno dello sport, che ha portato la proposta di ipotizzare delle categorizzazioni che prescindano il genere, quindi per esempio per il pugilato provare a fare degli incontri misti. Questo è qualcosa su cui si sta riflettendo molto sia a livello della nostra palestra della Dante di Nanni, ma anche a livello nazionale negli incontri con le altre palestre. Sì, tornando al film, in realtà mi ritornava in mente un po' Billy Elliot, no? Come diciamo un parallelo famoso anche a livello cinematografico, eccetera, però che ripercorre appunto proprio gli stereotipi di genere, in questo caso però su un ragazzo esatto. Poi della working class, quindi che appunto vive in un ambiente in cui è proprio spinto in questo caso invece a fare il pugile, e che effettivamente non vede quella come sua vocazione, quindi c'è tutto questo percorso di crescita molto interessante, e quindi immagino che possa essere anche fatto un parallelo invece al contrario, diciamo, su questo film che invece si basa sulla storia di una ragazza. Esatto, mi sembrava interessante perché c'è anche il fratello di Diana in tutto questo, che fa pugilato perché il padre ci tiene che lui faccia pugilato, ma in realtà lui ha come ambizione quella di studiare, di disegnare, tutte passioni che comunemente non sono troppo riconosciute, e i soldi in famiglia scarseggiano, quindi anche il pagamento della palestra non è molto semplice. E quindi poi a un certo punto ci sarà in qualche modo anche la scelta, no? Su chi dei due continuerà a far box, e quindi su quali siano le reali inclinazioni dell'uno e dell'altro, e su quali siano invece le aspettative sull'una e sull'altra, ecco. E quindi sì, sicuramente Diana più volte le viene ripetuto nel film per quale motivo, no? Le abbia scelto questo sport che non è considerato femminile, ovviamente l'allenatore all'inizio non vuole allenarla proprio perché è una donna. E poi il discorso, la riflessione sulla questione dell'incontro misto riguardava il fatto che ci si chiedeva cosa succede, no? Nel momento in cui un uomo affronta una donna, in qualche modo ci si diceva che significa in qualche modo in qualche modo c'è un rischio di perdita in entrambi i casi, no? Perché se si vince con una donna, si è comunque vinto con una donna, quindi questo in qualche modo sminuisce la vittoria. Se si perde con una donna, si è perso con una donna, il che amplifica l'umiliazione della sconfitta, no? Quindi c'era anche un po' una riflessione legata a questa tipologia di contenuti, diciamo. Va bene, non so se intanto vuoi aggiungere qualcosa, intanto se vi siete anche dati nuove date per quanto riguarda questo percorso per il momento, o se invece avete rimandato, insomma, appunto nuove date a destinarsi. Allora, volevo riparare l'ennesima volta data, scusa. Non abbiamo al momento degli appuntamenti ufficiali da lanciare. L'idea è che da questo si provasse di nuovo a parlare di Gasp e quindi di nuovo a far nascere l'interesse. Quello che era stato molto bello del percorso di Gasp è che era un percorso veramente molto aperto, molto inclusivo, per il quale è stato richiesto veramente la partecipazione, l'idea e l'energia di chiunque avesse voglia di sperimentarsi, diciamo. Quindi non c'è un momento specifico, ma ci sono ancora tante idee, tanti contatti, anche tanti scambi con altre realtà, e in particolar modo mi viene in mente che abbiamo parlato con l'Assemblea Antisessista di Torino, che sta preparando un workshop sul sessismo all'interno del movimento, e ha l'intenzione di proporlo poi anche in palestra, anche all'interno degli spazi di movimento. Quindi questo sarà un altro passaggio che probabilmente riusciremo a fare insieme prossimamente. Abbiamo in mente ovviamente degli eventi di avvicinamento, degli eventi magari di nuovo all'aperto, un po' più comunicativi, aperti, e quello che mi sentirei a questo punto di dire sono un po' i contatti di Gasp, di modo che si possa, chiunque abbia voglia di proporre idee, stimoli e quant'altro, possa farlo. Senz'altro. Quindi per esempio c'è il blog che è sportantisessista.noblogs.org o una mail che è sportantisessista@subvertising.org e c'è una mailing list che si trova anche dalla pagina dei contatti del blog e poi la pagina Facebook GASP. Ok, allora insomma aspettiamo nuove iniziative anche proposte appunto dall'esterno che arrivino sia a Torino che anche magari a Roma su certo. questo tema. E quindi ti ringraziamo intanto per questa corrispondenza e mandiamo un pezzo di un noto gruppo torinese per salutarti a questo punto. Grazie a voi. Ciao Silvia. Ciao. A presto. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Allora, intanto torniamo in diretta con un punto stavolta un po' più lungo del solito sul calcio popolare, nel senso che ovviamente andrò adesso a dare lettura come di consueto dei risultati, ma poi ci soffermiamo un attimo, insomma qualche minuto, a parlare di come sta procedendo la stagione, perché ci abbiamo, come ogni appassionato e appassionata di calcio sa, insomma inizia marzo, iniziano gli ultimi due mesi più o meno, chi più chi meno, dei campionati, e quindi andiamo a vedere un po' chi può regalarci quest'anno delle soddisfazioni, chi sta messo bene in posizione di alta classifica, chi invece viceversa rischia qualcosa. Ma intanto appunto andiamo in ordine. Oggi è una giornata con i risultati molto monchi, direi, perché tra alcune partite che iniziano tardi, che stanno iniziando ora o addirittura devono ancora iniziare, un paio di partite rinviate per maltempo e alcune di cui non si sa semplicemente bene, non sono arrivate notizie, quasi metà dei risultati ci mancano. Ad esempio il Le Boschi e la Dal Pozzo, quindi Lombardi e Toscani, evidentemente al centro nord non è bel tempo oggi perché sono state entrambe rinviate, e la Lokomotiv Legra di Napoli riposava come turno di riposo, e poi appunto ci abbiamo altre mancanze. Ma vediamo invece il Quartograd, che purtroppo perde in casa per 3-1, e anche l'Abruzio in Cosenza, quindi le due squadre di promozione perdono, l'Abruzio per 1-0. Vince invece in prima categoria l'Afro Napoli United per 4-2, continua un ottimo campionato. E scendendo in seconda categoria, la Cipozzo pareggia per 0-0, pareggia anche la Conlassata Ancona per 1-1. Mentre anche lo Spartak Lecce pareggia per 0-0 fuori casa. E andiamo in terza categoria, dove il Cava United vince anche oggi, vince quasi sempre, 1-0 fuori casa. Pareggio per l'Atletico Brigante di Benevento per 1-1 in casa. Perde in casa Ostia la Spartak Lidense per 2-0. Pareggia 2-2 l'Ardita fuori casa, vince la Gagarin Teramo per 2-1. E andando al calcio a 5 femminile, visto che di sport femminile si parlava, stavolta le notizie non sono molto buone, perché l'Atletico San Lorenzo giovedì ha perso 8-1, ma insomma poco male. E quindi insomma vediamo un po' cosa sta, come stanno andando questi campionati. Intanto una prima menzione direi che va fatta sicuramente all'unica squadra di calcio popolare prima in classifica in solitaria, che è il Cava United Football Club, appunto la squadra cavese, che quest'anno diciamo si è affacciata sul mondo del calcio popolare partecipando un inizio anche, col botto proprio un inizio col botto, cioè proprio una marcia trionfale, un primo posto con vari punti di distacco sulla seconda, e anche appunto un interesse mostrato poi dal progetto, che appunto si è affacciata all'assemblea di gennaio qui a Roma. Insomma una bellissima new entry, ecco, una novità di quelle che ce ne vorrebbero di più. Sì, in un momento particolare per la città di quei Tirreni, perché non dimentichiamolo che proprio tipo ieri o forse ieri sono arrivate tipo 68 diffide per la Cavese, sì, la Cavese, tra cui anche persone, donne di 78 anni, quindi voglio dire un esempio di repressione nel mucchio proprio, 360 gradi e oltre. Insomma, bastava essere partiti in trasferta per aver preso questa diffida, cioè, a dimostrazione di come sono fatte le leggi per lo stadio destino in Italia. Eh sì, fra l'altro insomma quello che raccontavano nell'assemblea, c'è un legame, come spesso accade in provincia, un legame anche virtuoso tra la tifoseria della squadra, appunto della prima squadra, che è la Cavese, che se non sbaglio milita in Serie D, e la squadra di calcio popolare. Insomma, molte persone vanno a vedere entrambe sostanzialmente. E Cava United Football Club, la grande rivelazione di quest'anno, speriamo, ovviamente ancora il campionato non è finito, però diciamo che se gli basta mantenere questo andamento, ma anche forse qualcosina meno, e dovrebbe salire meritatamente in seconda categoria, ma appunto speriamo bene. Forza Cava United, eh sì, sì, la nostra, quest'anno la nostra punta di diamante. Poi vediamo un po' salendo di categoria, perché Cava United gioca in terza categoria, invece due categorie più sopra c'è l'Afro Napoli United, la squadra insomma antirazzista per eccellenza, anche se forse rispetto ai progetti di calcio popolare ha qualche differenza nell'organizzazione, sì, più legata al mondo dell'accoglienza, ecco. Però sa di fatto che è una realtà in grande spolvero, è seconda in classifica, comunque è neopromossa, ricordiamolo, sì, ha vinto l'anno scorso il campionato di seconda categoria, e da neopromossa è seconda in classifica, anche oggi ha fatto risultato, tra l'altro oggi ha di nuovo vinto, è uno squadrone, insomma vediamo, forse dovrà giocarsi la playoff, perché solo se vinci il campionato sali direttamente, però insomma è senza dubbio una grande realtà. E questo per la prima categoria. In seconda categoria abbiamo i marchigiani di questa, appunto, di questa squadra, che abbiamo sentito anche tante settimane fa ormai in trasmissione, che c'è questa strana cosa per cui si chiama AC Pozzo per i tifosi, ma in realtà c'è un altro nome, che è Atletico River Urbinelli, quello ufficiale, ancora non sono riusciti a cambiare il nome, a mettere quello che vogliono loro, quello che vogliono i tifosi, insomma. Ma sta di fatto che la stagione è buona anche in questo caso, sì. Se non sbaglio si parla di un quinto posto attualmente, che sarebbe l'ultimo posto utile per i playoff, quindi è tutta da vedere, è tutta da lottare ancora, non è detto, però sicuramente una stagione da protagonisti pure per loro, direi. E così come per il Castel di Sangro, rifondato dalle ceneri della gloriosa squadra del paesino abruzzese, che arriva addirittura in Serie B e a sfidare l'Inter in Coppa Italia, tra l'altro, appunto, quindi parliamo di un passato anche recente, perché insomma noi eravamo piccoli, però insomma, sì, si parla di 90. Di meno di 20 anni fa, 20 sì, anni una ventina di anni fa, sì, ecco, sì. Non della preistoria, e rifondata come squadra popolare, e se la sta lottando in seconda categoria con un po' come i marchigiani. Ci sono speranze di playoff e quindi ovviamente anche di promozione. E vabbè, poi chiudiamo il discorso alta classifica, diciamo medio alta classifica, con una delle squadre storiche, delle punte di diamante di sempre del calcio popolare, che è il Centro Storico Le Boschi, che l'anno scorso ha sfiorato veramente, è stato beffato, ricordiamo, sì, sul finale. Non è salito in promozione. In realtà ci aspettavamo tutti un ripescaggio, che poi non c'è stato, tra l'altro. Come in altri casi invece c'è stato, mi pare che l'Abruzzo in Cosenza, sì, sia stata ripescata. Forse pure il quarto grad stesso ha usufruito un ripescaggio, perché aveva perso la finalissima, mi pare. Comunque, ecco, potrei sbagliarmi su questo, ma insomma tutti erano quasi certi di un ripescaggio, perché in queste categorie ricordiamo che basta una squadra che non riesce a iscriversi, che non riesce a pagare le spese nella categoria superiore, e te puoi essere ripescato come primo degli esclusi, diciamo. Non è successo, evidentemente in Toscana le squadre sono abbastanza godono di sane, ottima salute finanziaria in questo caso, purtroppo. E quindi Le Boschi quest'anno ci si aspettava, insomma, che ripetesse la stagione dell'anno scorso, non che stia andando male, perché ancora è in piena zona, in piena lotta per entrare nei playoff. Oggi sicuramente manca qualcosina per ripetere l'exploit dell'anno scorso, insomma. Eh sì, è un girone nuovo, questo va detto. L'anno scorso di solito più o meno trovi lo stesso girone ogni anno, invece loro sono stati spostati su una zona diversa, quella più verso Prato e Pistoia, dove ci sono formazioni. C'è una capolista aglianese, che è una squadra che è stata in Serie C fino a pochissimo, poi è fallita. Squadra anche di Massimiliano Allegri, se non ricordo male. Mi sembra di sì. Squadra con cui ha debuttato l'allenatore. Quindi sta dominando il girone. Poi, ecco, per il resto è una grande lotta, una mischia in cui in pochissimi punti ci sono tante squadre. Quindi ancora fattibile l'impresa. Mi ricordo che anche l'anno scorso, comunque, nel girone Le Boschi era arrivato, mi sa, all'ultimo posto utile nei playoff, e poi ai playoff aveva avuto un exploit pazzesco vincendo contro squadre che erano andate meglio di loro in campionato. Vedremo, insomma, è comunque piena lotta ancora, oggi rinviata per pioggia e ancora tutta da giocare. Poi abbiamo varie squadre in realtà intorno alla metà classifica, ma in cui ancora ovviamente si parla di campionati un po' diversi dalla Serie A, dai grandi campionati, sono campionati più aperti in cui le grandi rimonte ma anche i grandi crolli sono sempre possibili, sono sempre dietro l'angolo. Quindi noi speriamo che per esempio la frazione calcistica dal Pozzo in terza categoria, il quarto grad, anche se ormai è molto difficile dopo la sconfitta di oggi. Sì, penso che abbia abbandonato ogni velleità di promozione, insomma. Forse sì, anche di partecipazione ai playoff. Però ecco, magari due parole sul quarto grad. Comunque neopromosso in promozione, la prima squadra, cioè in questo momento la squadra più in alto, perché insieme all'Abruzio in Cosenza, che però sì, in classifica un po' più giù, comunque neopromossa in promozione, sta a metà classifica, no, sta bene. C'è un bel campionato, bella stagione, poi una stagione in cui la squadra ti ha consigliato così tanta tranquillità che agli onori della cronaca è balzato più tutto il resto, il contorno, le proteste nell'aria, la famosa questione di quarto. Sì, in cui forse il quarto grado in tutto quel casino è l'unica realtà sana, migliore, sì, insomma, è sì, l'unica realtà veramente sana di quella città. E, però ecco, insomma, loro, io andai a vedere la prima del campionato come inviato, tra virgolette, e loro proprio parlavano molto spavaldamente anche di una lotta per le prime posizioni. Insomma, magari aspettiamo l'anno prossimo, insomma, non è un problema anche arrivare a metà classifica da neopromosse, anzi, non rischia la retrocessione a 8 punti sulla zona playout. Direi che va benissimo. Ma l'ottimismo ci vuole un po' per conteggiare l'ambiente, poi se non è quest'anno sarà l'anno prossimo, vogliamo augurare il meglio ai nostri amici del quarto. Sì, veramente una realtà che sta facendo da guida poi a tutto un movimento. E poi sempre nelle zone di metà classifica, appunto la Dal Pozzo, che potrebbe forse, oggi anche quella rinviata per pioggia, potrebbe ancora fare un'impresa e arrivare ai playoff, ma è un po' distante. E poi abbiamo Stella Rossa, Spartak Lecce, Atletico San Lorenzo, che diciamo ormai molto difficilmente potranno rientrare in corsa per i playoff. Atletico San Lorenzo che gioca alle 6:30 oggi pomeriggio, ma è come se avesse iniziato a giocare stamattina, perché ha organizzato un'iniziativa che proprio nel quartiere di San Lorenzo ha cercato di riqualificare l'area del Parco dei Galli, che ha molto provato uno dei nostri redattori, non dirò quale. No, uno che ancora deve arrivare, evidentemente, sì. Dice che arriva dopo, intorno alle 6:30. E diciamo, c'è questa, cioè, ha provato a riqualificare l'area dei Galli, che è al centro di una speculazione in cui buona parte di quest'area dovrebbe andare ai proventi di un privato che dovrebbe fare un parcheggio. E, cioè, ricordiamo che è una delle poche aree verdi del quartiere, con anche dei giochi per i bambini, un centro di riferimento per buona parte della popolazione di questo quartiere. E quindi ha cercato di far vivere questa situazione locale, cercando di riqualificare l'area, creando una sinergia anche con questioni che potremmo definire globali, come quella che hanno riportato i nostri amici Oltremedia, Mattias, di uno dei soci tesserati dell'Atletico San Lorenzo, che è andato in Kenya e ha portato delle divise, delle scarpette da calcio per i bambini di un villaggio, appunto, del paese africano, riuscendo proprio a creare questa sinergia tra il locale e il globale, che penso che sia forse una delle cose che viene a riuscire meglio a rappresentare alla squadra del quartiere da cui anche noi trasmettiamo. Eh sì, è una doverosa parentesi, perché l'Atletico l'iniziativa ne fa davvero tanto ed è giusto darne notizia. E abbiamo poi in Campania Locomotive Flegrea e RFC Lions Caserta, che pur essendo abbastanza in basso in classifica come posizione, sono gironi, come dicevamo, gironi un po' strani spesso. Sì. Questi due gironi sono praticamente tutte le squadre in pochissimi punti, sembrava facciano apposta più o meno di equivalersi tutte, quindi nonostante in teoria sembrerebbe lontana la promozione, con pochi punti, con uno scatto finale, con qualche vittoria, potrebbero ancora regalarci una sorpresa, Lokomotiv Flegra e i casertani degli RFC Lions. Velocemente sulla zona retrocessione, dove c'è da segnalare un'impresa per ora straordinaria, anche se oggi ha perso, quella dell'Abruzium Cosenza, che a Natale era spacciata praticamente, cioè aveva pochissimi punti, era messa malissimo in promozione, insomma da neopromossa nella categoria maggiore del calcio popolare, faticava, ha avuto uno scatto terribile nei primi due mesi dell'anno, ha vinto quasi sempre e adesso addirittura è al momento fuori dalla zona playout, quindi speriamo che questa impresa si compia fino in fondo. Oggi purtroppo una battuta d'arresto, poi vediamo, in zona playout giocherà quasi sicuramente playout la San Precario di Padova, che insieme alla collassata Ancona erano state ripescate l'anno scorso in seconda categoria, quindi non erano state promosse sul campo, quindi insomma poi affrontare la categoria superiore in queste condizioni non è semplice. La San Precario se la può giocare ai playout, la collassata Ancona purtroppo, nonostante il pareggio di oggi, mi sa che l'ultimo posto purtroppo non glielo leverà nessuno. Una lieta notizia, sorpresa quasi questo pareggio oggi, insomma. Sì, oggi contro una squadra molto più forte, però insomma ecco, una bella impresa sportiva, probabilmente però non erano pronti ancora, insomma, a giocare la categoria superiore, cosa che ci sta, è stato un ripescaggio un po' strano, tra l'altro un po' sorpresa. Mentre la Gagarin Teramo va bene, insomma, parliamo al volo delle esordienti assolute, Gagarin Teramo e Spartak Lidense in terza categoria. Sono nelle ultime posizioni, ma se la sono cavata bene, perché di solito il primo anno che fai di terza categoria arrivi ultimo, forse non ne vinci neanche una in tutto l'anno. Invece comunque sono squadre che hanno dimostrato di saperci stare. Forse un po' deludente la stagione invece dell'Ardita, che l'anno scorso è andata ai playoff, sì. E quest'anno invece è tipo quart'ultima, quint'ultima in classifica, ci si poteva aspettare qualcosa in più. E un ultimo cenno appunto al calcio a 5, forse, dove la squadra maschile che abbiamo in Campania, a parte Zammatese, e quella femminile invece qui dell'Atletico San Lorenzo, insomma hanno portato finalmente anche nel calcio a 5 quello che è la mentalità, la filosofia del calcio popolare. Per adesso non sono in grado di salire di categoria dalla Serie D, però negli anni insomma hanno iniziato comunque le ragazze soprattutto con un buono spirito, anche vincendo delle partite ovviamente tempo al tempo per avere delle promozioni e tutto quanto. Direi che più o meno, insomma, visto che abbiamo un altro breve collegamento, ci siamo. Una panoramica abbastanza. Ovviamente seguiremo, cioè questa era introduttiva, anche d'ora in avanti con le partite sempre più importanti, e si arriverà a dei veri e propri spareggi. Alcune squadre giocheranno i playoff, quindi le seguiremo magari più da vicino. Speriamo di riuscire a seguire più a lungo, perché vuol dire che le squadre hanno raggiunto gli obiettivi, esatto, degli spareggi promozionali. E magari proveremo a farci qualche trasferta da cui collegarci in diretta, sempre se sarà possibile, ma vedremo. Intanto bene così. No, stacchetto musicale, quindi con Gianni Cosca. Shorts, trousers to match your tie. Yeah, even strawberries, so go soft with that. Johnny, get ready and go skier tonight. Early Jamaican 60s to late 70s. Johnny be good and he must be go good. He said he's been now with an 80s beat. And I'm on an alarmy, I'm from 80 boy. Let's rock steady, everybody. Let's get the hell out of Johnny tonight. Johnny goes to hell. Johnny goes to die. song is adapted to that sweet melody. Ignoring the sweet, still treating it sweet. Dancing all night, it is a new way of life. That's the sensation, boy, what a temptation. Johnny, get ready and go skier tonight. Early Jamaican 60s to the late 70s, one. Johnny be good, now he might be go rude. This is just been now with the 80s beat. And I'm on an alarm, me a form a cheap white. Let's rock steady, Johnny and me. Let's get the hell out of Johnny tonight. Johnny goes out. E andando a sfumare quindi The Toasters, siamo in collegamento con Ostia, come preannunciato l'ultimo collegamento della serata, per parlare di un'iniziativa che ci sta proprio stasera, se non già in corso. Intanto salutiamo Luca, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buonasera. E non so intanto se ci vuoi dire un po' le coordinate di questa iniziativa e cosa sì, succederà. L'iniziativa è venerdì 11. Ah, ok, ero. Mi sono. Sì, sarebbe venerdì prossimo. Oggi faccio figure di merda continue, no, così proprio a rotella. Sì, sì. Però va bene. È la sveglia presta che mi costringe. Ti voglio bene anche per questo. Lo so, lo so. È la sveglia a cui mi costringono, purtroppo. Ma no, l'iniziativa ti racconto velocemente? Sì, grazie. L'iniziativa è venerdì 11 marzo, quindi prossimo venerdì, al Teatro del Lido di Ostia, e, con la scusa di presentare il graphic novel di Alessio Spadaro, che è Bertino, porteremo forse un'iniziativa unica, per la prima volta in un teatro professionale porteremo tre bigliettini e si farà il primo torneo dedicato a uno degli inventori del bigliettino, che è Alejandro Finisterre. E quindi dalle 5 ci saranno le iscrizioni al torneo, parteciperanno anche diverse squadre del calcio popolare, alcuni scrittori, artisti del litorale, insomma, le persone che si vogliono iscrivere. C'è un indirizzo per iscriversi che è info@territorionatante.it. Poi sarà la premiazione, chi vincerà il torneo avrà una tavola originale firmata da Alessio Spadaro, e poi sarà la presentazione del graphic novel con Alessio, che sarà accompagnato da Rita Pretuccioli. Aggiungo che tutto il torneo sarà, diciamo, commentato in diretta dagli amici di Sport Popolare, che avranno anche un banco con Restartes e National Libri, avranno un banco con i libri, oltre a quelli adesso alcuni libri dedicati allo sport popolare. Quindi venerdì 11 alle 17, alle 19 invece sarà la presentazione a Ostia. Perfetto, quindi venerdì 11, se ci puoi ripetere la mail, perché non penso si sia sentita benissimo. Sono stato troppo veloce. Allora, sì. L'email è info@territorionarrante.it. Territorio Narrante è il collettivo che organizza questa iniziativa e altre iniziative sul territorio. L'appuntamento è venerdì 11 al Teatro del Lido, che è in via delle Sirene 2. Dalle 5 il torneo di Biardino, dalle 19 c'è la presentazione del graphic novel di Alessio Spadaro, con Rita Pretuccioli che lo accompagna. Perfetto, allora ti ringraziamo anche di questo intervento, magari ci aggiorneremo insomma con gli amici che fanno la telecronaca su come è andato, la radiocronaca più che tele, e quindi per adesso ti salutiamo, ti auguriamo buona domenica. Se non ci vuoi aggiungere, grazie, qualcosa oltre appunto a questi contatti e a ricordare che venerdì 11 c'è questa iniziativa. Sì, io ripeto un'altra volta che forse è la prima volta che riusciamo a portare dei bigliettini, quindi un gioco popolare all'interno di una struttura pubblica che è insomma di professionale, che è quella del teatro. Cioè, sia la prima volta che ci siano i bigliettini all'interno di uno spazio di questo genere. L'iniziativa che è dal Territorio Narrante, che è un collettivo di Ostia appunto che si occupa di una nuova narrazione del territorio. Appuntamento è di 11 al Teatro del Lido. Se venite voi mezzi, scendete alla stazione di Lido Centro e poi si prende lo 01. Va bene, allora ti ringraziamo per questa corrispondenza e appunto ci riaggiorneremo in seguito. E grazie. Buon pomeriggio e buona domenica. Buona serata. Grazie. Ciao. Noi con questo dunque abbiamo concluso anche questa puntata della Mischia e ricordiamo appunto queste due iniziative che ci saranno, anzi queste tre iniziative, quindi intanto la partita dell'Atletico San Lorenzo alle 18:30. Al campo di Pro Roma in Largo Preneste contro il Cineto 1974. Noi stiamo andando, insomma, invitiamo chi non avesse da fare prima di cena a passare, comunque di solito ci si diverte parecchio. E soprattutto qua comunque c'è la divisione di genere, quindi i maschi vanno a vedere la partita di pallone, le femmine vanno all'iniziativa alla strada, e in questo caso quindi appunto ci ricorderà. Ma venite, andate alla partita e poi cenate alla strada, direi che si può fare tutto, no? Tra l'altro, a parte l'appuntamento di oggi alla strada, poi domani vi ricordo quelle di Belleforti, ci vediamo a Piazza del Popolo alle 7. E inoltre, se vi è piaciuto The Hateful Hate di Tarantino, dovete venire assolutamente a vedere The Skateful Fight, la prossima partita delle She-Wolves, la squadra romana di roller derby contro le Poison Kitten di Palermo il 30 aprile. Al Palamunicipio di Via Tito 30, metro San Paolo, vi aspettiamo. Vi faremo anche tornare più a ridosso sicuramente per ricordare l'appuntamento, per adesso è parecchio in là. Forse ci vuole. Dai, e con questo quindi ci salutiamo con la consueta sigla e lasciamo il microfono a Jasi. Repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata. Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto.